America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti a America 24 da Washington, Mario Platero. Beh, devo dire, questa mattina, qui sono circa le 8 meno un quarto, questa mattina, vi dicevo, non si parla d'altro, televisioni, prime pagine dei giornali, dedicate a Sam Smith, 22 anni, inglese, artista, rivelazione, ha sbancato i Grammy Awards. Ieri notte a Los Angeles ha vinto ben 4 Grammys, che sono gli Oscar per la musica, disco dell'anno, canzone dell'anno, miglior nuovo artista, migliore disco pop, la canzone regina e Stay With Me. Ma non sono, devo dire, nella capitale americana per il bel canto, sono qui perché fra poco Angela Merkel è arrivata, ieri sera andrà alla Casa Bianca per un bilaterale con Barack Obama, tema centrale, drammatico, l'Ucraina, dove la situazione è sempre più difficile per gli assedi dei ribelli appoggiati da Mosca. Ci sono pressioni sulla Casa Bianca per l'invio di armi a Kiev, ad esempio da parte del senatore Cruz, ma Obama e la Merkel vorrebbero una soluzione negoziata. Di certo siamo agli sgoccioli, c'è un tentativo di recupero degli accordi di Minsk, ci sono sanzioni da discutere. Tutto questo in preparazione di un incontro chiave a 4 per cercare una tregua, un incontro fissato per mercoledì nuovo a Minsk. Intanto vorrei raccontarvi di un altro rapporto bilaterale, quello fra l'Italia e gli Stati Uniti, soprattutto in materia di investimenti. Dear my fellow citizens, we are able to come back to be dreamers, to come back to give the message of quality and the quality of life and lifestyle and ideals and the culture and the beauty around the world. But for this, we must change. Change is not a bad word. Change is the only way to come back to be dreamers. Ecco, in questo caso vi ho fatto ascoltare il presidente del Consiglio Matteo Renzi in un'intervista con Charlie Rose, uno dei più grandi intervistatori americani. Devo dire, Renzi ha fatto molto bene, ha parlato in inglese. Renzi viene preso ogni tanto in giro per il suo inglese. In realtà posso dirvi che l'inglese di Matteo Renzi è accettabilissimo, funziona, conquista l'ascoltatore. Qualche cosa non la capiscono, ma quello che capiscono, beh, lo capiscono bene fino in fondo e restano comunque affascinati dal personaggio. Perché vi racconto di questo? Perché l'occasione di quel viaggio di Renzi, che poi passò anche dalla California, lo ricorderete, è stata un'occasione per parlare di Italia, per cercare di attirare investitori stranieri nel nostro paese, il nostro paese che fatica a crescere e che non dà fiducia. Ecco, questo tentativo di vendere l'Italia continuerà nei prossimi giorni, lunedì, martedì, ma è partito ieri a Washington, dove appunto mi trovo. A Washington si è parlato molto sul futuro, sull'innovazione, e il convegno è stato organizzato dall'Aspen Institute, devo dire, con un taglio molto interessante che porta un aspetto nuovo per ciò che riguarda il nostro paese, cioè le donne. Pensate che ci sono circa 8 milioni di donne che fanno business in America e che sono molto attive, ce ne sono circa 7 milioni e qualche cosa in Europa, e quindi il ruolo delle donne nell'economia è un ruolo che è cresciuto, non che sta crescendo, è un ruolo che è già cresciuto enormemente. L'obiettivo è quello di aprire un canale di conversazione fra le donne in affari e fra le due sponde dell'Atlantico, fra le donne che fanno parte della comunità, diciamo, del NAFTA, North America Free Trade Agreement, quindi Messico, Stati Uniti e Canada, e le donne europee, in questo caso le donne italiane. L'incontro è stato organizzato soprattutto dall'Aspen Messico e dall'Aspen Italia, proprio per cercare di trovare delle opportunità di investimento in quelle aziende che sono guidate dalle donne. Il focus specifico, tra l'altro, di questo incontro è sull'agribusiness e sul settore alimentare. Perché? Beh, perché di nuovo si cerca di promuovere Expo. Ci sarà, per esempio, Luisa Todini, presidente delle Poste italiane, Marta Dassù, ex numero 2 al ministro degli esteri, e molte altre donne che sono straordinariamente attive nel nostro paese. Martedì questo gruppo, domani questo gruppo si trasferisce a New York e va a confluire in altri due gruppi, nell'Italian Business and Investment Initiative al mattino e nel Consiglio per le relazioni fra l'Italia e gli Stati Uniti nel pomeriggio. Stiamo parlando di tre gruppi separati che parlano di opportunità in Italia. Ecco, trovo interessante questa cosa, perché è giusto che finalmente, come dire, l'unione fa la forza, si cerchi di coordinare le azioni di questi gruppi separati tecnicamente con obiettivi diversi, ma con un unico obiettivo di fondo, che è quello di portare investimenti stranieri in Italia. Apertura dei lavori domani mattina, ci sarà Donato Iacovoni, amministratore delegato di Eastern Young Italia, parleranno anche Sergio Marchionne, Sergio Dompé dell'omonima casa farmaceutica, Riccardo Illi dell'omonima Casa del Caffè, molti altri. Nel pomeriggio, le riunioni sono strettamente a porte chiuse, perché lì passiamo al Council for United States and Italy, un'organizzazione che è stata creata dall'avvocato Agnelli e da David Rockefeller, quindi ha un background, come dire, un pedigree molto importante, un pedigree piuttosto interessante. Il presidente di questo gruppo è Sergio Marchionne, e nel pomeriggio di domani si parlerà molto di attività politiche sia interne che internazionali, di Ucraina, questa Ucraina che preoccupa tutti, di Medio Oriente, di Arabia Saudita, e si parlerà di elezioni del 2016, anzi posso anche dirvi che darò il mio modesto contributo partecipando a uno dei dibattiti nel pomeriggio. In serata domani un evento in consolato, sempre sotto il cappello dell'Aspen Institute, con la partecipazione dell'ambasciatore americano all'ONU Samantha Powell, che è un grosso personaggio, con un intervento del nostro ministro degli esteri Gentiloni. Insomma, stiamo parlando di un tour de force impressionante. Però torniamo a quello che vi ho detto in apertura: attirare gli investimenti. Servirà qualcosa questa mobilitazione di ministri, imprenditori, manager che rappresentano il futuro dell'Italia? Beh, sicuramente sì, più si parla del nostro paese in America, a New York, tra l'altro questo evento avverrà da Bloomberg, quindi in una cornice molto importante dal punto di vista mediatico e dal punto di vista mediatico finanziario, però il punto centrale resta la merce che questi signori andranno a vendere, e cioè l'Italia. Possiamo dare garanzie per una tenuta delle riforme in profondità, per un taglio reale della burocrazia, per una giustizia non solo che funzioni, ma che non sia politicizzata o intimidatoria a priori? Insomma, potrei continuare, perché i problemi li conosciamo tutti. Dico solo che gli investitori americani sanno benissimo chi siamo e dove siamo. Ho vissuto per anni incontri simili, pieni di promesse vuote. Ecco, è arrivato il momento di una svolta, ma non necessariamente da parte dei nostri volonterosi ambasciatori di business, di aziende, di politica. Insomma, la svolta dobbiamo vederla a Roma. Come diceva un nostro vecchio titolo del giornale, fate presto, perché qui il mondo va avanti e certo non si ferma ad aspettare l'Italia. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vede più tempi difficili e resta sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. And the Grammy goes to Sam Smith. I Grammys, ve ne ho parlato prima, 4 Grammys, grande emozionante successo di Sam Smith, appena 22 anni, un ragazzone con due croci a mo' di orecchini, gay, inglese, afflitto a lungo da sovrappeso, poi liberato, l'ha detto lui stesso ieri sera nella sua performance artistica. È la nuova sensation, musical sensation dell'anno, del mondo, e dunque di Sam Smith la sua canzone regina, Stay With Me. Deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me, 'cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see, but darling, stay. Washington è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.